Vi presenta Liberami padre di ogni bontà dalla medianità di zingari. Liberami padre di ogni bontà dal vizio della droga, dal vizio del bere i liquori forti. Liberami padre di ogni bontà dalle ossessioni omosessuali, dalle ossessioni gay. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Lei è un insultatore. Per favore, non insultare. Io ho detto che chi uccide facendo una rapina eccetera deve avere la pena di morte. Chi uccide con prove certissime. Ecco, ma che tipo di pena di morte lei preferisce? Che cosa dovrebbe fare? Stavo pensando, secondo me in picagione buono, sì, come quando hanno giustiziato il leader eccetera, perché non c'è sangue, signor Saddam Hussein, che... Esatto, l'hanno impiccato e voglio dire non c'è sangue, se no ci sono, sai, quelle siringhe. Ci deve essere un segnale chiaro, e cioè se tu entri nella proprietà privata puoi rischiare la vita, punto. Signora del Santo, sa che cos'è lo squirting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché ho sbagliato? Quello che ti muovi tipo convulsamente. Cos'è lo squirt? Cruciale, dimmi cos'è il sprint. Quel ballo dove muovi il sedere. Allora quello era il twerking. Quello era il twerking. Ah, Dio mio. Allora io ho goduto come un pazzo, ovviamente non per quello che succede in generale, le guerre, anche se a me sinceramente se si fanno un po' le guerre nel mondo non me ne frega come? Assolutamente nulla. Ma cosa dici? No, io sono sincero, ma cosa vuol dire? Mi dispiace quando vogliono i bambini, ma mi dispiace anche quando vogliono i vecchi, che differenza c'è? Io non sopporto le campagne a favore dei bambini, i bambini sono uguali ai vecchi, non capisco perché ci sono morti di serie A e i morti di serie B. Ma che non sono morti di serie A o morti di serie B? Sì, perché adesso c'è questa campagna. Si prova molta più tenerezza perché i vecchi poi moriranno. E guarda, quindi... che sei razzista. Io non sopporto tutte queste campagne. Per esempio, anche del mio amico Fabio Volo, che fa tutte queste campagne. Ieri sera ci ho parlato sui bambini morti in Siria. Ovvio. Ma non ti fa tenerezza quando vedi il corpo di un bambino. Ma cosa vuol dire? È troppo facile. Ma è l'emotività che hai dentro. Non è questione di facile o difficile. Quando vedi il corpicino di un bambino sotto delle macerie, ma chiunque si. Amico mio. Penso anche, è uguale, è perché il capitano Uncino si commuoverebbe. Non ho capito, perché i vecchi e i giovani e i vecchi e gli adulti e le donne, che c'entra? Ma che vuol dire? Dai. Tutti che si commuovono per i bambini, siete razzisti, tu in primis. Tutti che fanno queste campagne. Comunque queste ti voglio dire che oggi mi ha telefonato, questa mattina ho avuto un lungo colloquio telefonico. Ma nessun Mossad. La notizia è questa, Parenzo, due punti. Mi ha chiamato stamattina portavoce dell'UNICEF Italia. Allora? Che mi ha detto: guardi, dottore, ieri ho sentito questa conversazione che lei ha avuto. Dico, conversazione, me la chiama lei. Questo scontro che lei ha avuto con il signor Chiesa. Le do tutta la mia solidarietà, perché noi anche combattiamo sempre per quello che il regime di Assad ha fatto ai bambini e ai siriani. Quindi mi ha mostrato l'UNICEF, capito? L'UNICEF. Altra organizzazione sostanzialmente inutile, diciamo la verità. UNICEF, ONU, tutto da cancellare. Domani mattina tutto. Ma UNICEF, quale, ONU, ma tu sai via. Cosa fanno ogni giorno? Lo sai o no il ruolo che svolgono non ogni giorno? Non mi piace, il lavoro che stanno svolgendo anche lì in quei territori limitrofi per capire, salvare si vite umane. Si faccia altro con poca burocrazia, si faccia altro. Comunque, al di là di questo, io non sopporto le campagne fatte per i bambini. Non le so, vabbè, non mica per i bambini. Sei un pazzo, non le sopporto. Cioè, e i vecchi e i vecchi che muoiono, nessuno si mobilita. Perché nessuno si mobilita? Ma che ragionamento, siete razzisti, siete razzisti. Che ti dicevo all'inizio, prima, ogni volta mi interrompi, mi fai aprire delle parentesi lunghissime. Ma perché dici delle follie, ma delle cose scriteriate? Ma che scriteriate? Dai, dico delle cose, quello che penso. Le campagne per i bambini mi danno fastidio perché sono facili da fare e provocano molti consensi, attirano consensi. Sono facili da fare. Oh, ci commuoviamo per i bambini morti. Ma certo, ma perché è naturale che sia così, ma no? Dai, su. Comunque ragazzi, ogni volta mi interrompi, mi apri delle parentesi lunghissime. Stavo dicendo un concetto molto semplice. Ho goduto per il fatto che questo Trump, considerato contro l'Europa, una specie di persona che non si vuole più intromettere negli affari degli altri, eccetera, oggi leggevo le dichiarazioni di molti leader europei a favore di Trump per le bombe in Siria. Bellissimo, stupendo, meraviglioso, signor Trump, e nessuno capisce più niente. Molti si domandano, ma come, non era amico di Putin? Anzi, non era addirittura pagato da Putin? Pagato da Putin, e adesso sono in disaccordo? Ragazzi miei, siamo meglio noi che non abbiamo certezze e non ce ne frega sostanzialmente un cazzo, e ridiamo delle vostre opinioni e dei vostri preconcetti soprattutto. Signor Salvini, per esempio, che è molto putiniano, adesso critica Trump, essendo lui più vicino a Putin che a Trump. È rimasto vicino a Putin, certo, è rimasto vicino a Putin. Senti, signor Salvini. Chissà come mai. E io mi ritengo abbastanza libero da dire, da sostenitore di Trump, sono abbastanza libero intellettualmente, moralmente, di dire che se fa una cazzata, fa una cazzata. Pessima idea a favore dell'ISIS. Pessima idea, i missili non sono mai una buona idea, è un favore all'ISIS, al terrorismo islamico, era una guerra già vinta. Guerra già vinta. Ma se qualche settimana fa mi ha detto che bisognava, ogni volta che purtroppo c'è un attentato in Europa, e Dio non voglia che ce ne siano altre, era il primo a dire distruggere tutto, bombardare, rendere al suolo, partite, forza, andate avanti. Voi poi dopo vi raggiungo anch'io, intanto io sono qui con Salvini, voi andate avanti intanto. Ma adesso che dice? Le bombe sono. Ma fra Trump e Putin scelgo la pace. Tra Trump e Putin sceglie Putin. No, ma io scelgo la pace. Io scelgo il dialogo, scelgo il commercio. 59 missili non sono mai una risposta intelligente a niente. Non si tratta di scegliere l'uno o l'altro. E ragazzi, posso dirvi una cosa? Ma diceva il contrario. La parola pace in bocca a Salvini non va bene, però. Non va bene. Cioè, fra Trump e Putin scelgo la pace, il dialogo. No, non è così che si ma fa. Ma che Agnoletto? Ma cos'è, Vittorio Agnoletto? Ma che roba chi è? Sei Agnoletto? Ma chi sei? Vendola? Ma dai. Questa è buona, però. E chi sei? Vendola? Scegli Agnoletto, la pace, il dialogo. La pace? Cosa metti lo straccetto fuori con la bandiera della pace? Dai, Salvini, su! Però subito. Qui dice una cosa buona. ONU e NATO, enti inutili. Questa è buona, no? NATO è assolutamente no. No, l'ONU neanche inutili. Andando riformato. Ma cosa di... Ma... Gentiloni, non stai parlando a nome mio. Alfano, non stai parlando a nome mio. ONU, via dall'ONU, smettere di finanziare l'ONU, ente inutile. L'ONU e la NATO, a cosa servono? Va bene ragazzi, in tutto questo casino c'è un ministro della Repubblica. La quale, come sapete, il quale ministro? Io dico ministro della Repubblica. La quale, il quale, perché è una donna. Quale, non me ne, quale. Me ne frego. Ministro lo uso al maschile. E ti dirò adesso perché. Ministro della Repubblica che si chiama Federico, ministro dell'istruzione, sì, il quale fece quel persona. Piccolo errorino, tanto per essere gentili, per essere buoni, no? Mettendo che era laureata e invece non era laureata. Vabbè, d'accordo, è stata massacrata. Invece non era laureata. È stata massacrata oltre misura per dei mesi, manifesti oltre in tutta misura, Roma. Giustamente. Massacrata oltre giustamente, misura giustamente. Come avesse commesso hai un reato. Hai fatto una cazzata, paghi. Ma assolutamente paghi. Sì, non ma sei massacrata Parenzo, non per sei Cruciani, dei mesi. Che pure sì, pagano. Ma massacrata per dei mesi, una vabbè, campagna di odio. Non l'ha ordinato il dottore di fare ministro. Comunque andiamo avanti. Andiamo non l'ha ordinato cos'è il dottore di fare non ti va. No, la signora Fedeli in tutto questo fatto, casino eccetera poverino. Eccetera è attenta all'utilizzazione della parola ministro al maschile dice, e riprende ministro, un giornalista che gli fa una domanda una ministro Claudio Tucci sulle 24 ore io riesco buongiorno. A dirle di chiamarmi ministra no ministra, è complicato ha grazie ragione, ministra. adesso io non voglio dire, ma questo Tucci che io non conosco del Sole 24 ottimo Ore Tucci, che si è presentato, no, non lo mi conosco. Pare una brava persona, no, perché ma del sì, Sole, ma mi pare un'ottima persona che si piega subito. Subito, vabbè, lì, ma che si piega? Subito a Pecorina, amico ma mio. Ma che doveva fare? Combattere? Ma, che ma certo, fare? Io che la chiamo come cosa voglio. Ho detto fare? Ministro, mi scusi. Ma tu avresti scusi? Fatto scoppiare una canzone. Ma scusi lì, cosa? Ma che scusi? Ma perché? Ha ragione. Scusi subito. Lo dico naturalmente con tutto rispetto, però, amico sì, mio, dove starà a dire io la chiamo ministro? Io la chiamo ministro perché mi è venuto naturale chiamare ministro nella lingua italiana. Come si chiama battagli? Ministro, non ministra, nella lingua italica. Siamo in Italia, non nel mondo della Boldrini, non nel regno delle due Boldrini. Ma cosa vuol dire? Il regno delle due Boldrini, Boldrini e Fedeli. Il regno delle due Boldrini. Ma perché ti disturba no, così? Mi disturba tanto? Perché uno, vedi, perché uno si piega. Potrebbe essere del Sole 24 Ore, come potrebbe essere di Repubblica, non me ne frega un cazzo. È capitato però uno del Sole 24 Ore, dunque, per carità, adesso mi diranno: ah, non dovevi dire perché non mi interessa. A me potrebbe essere chiunque, non lo conosco. Uno che dice: scusi, scusi, ho sbagliato. Ma che hai sbagliato? Ho sbagliato. Hai no? parlato in italiano, è lei che parla un'altra lingua. È la Boldrini che parla un'altra lingua, non tu. Tu hai parlato in italiano, difendi, come diceva. Difendi qualcosa, come diceva Semproni. Difendi a spada tratta quello che hai detto. No, mi scusi e subito via. Mi scusi. Ah, dai. Mamma mia, Davido. Certo che mi fai proprio pena oggi. Come farai col cattivissimo Trump che bombarda il cattivissimo Assad, il solito povero immigrato col camion che fa un attentato nella civilissima Svezia, patria del buonismo mondiale? Da che parte stai oggi? Fai una cosa, vai, non ti presenta in trasmissione, vai alla Farnesina con Alfano a giocare ai mini pony. Ciao David. Sto con Trump, amico mio. Ma incredibile. No, incredibile, no, incredibile, ragazzi. Non ho mica il cervello all'ammasso. Parenzo, due punti, sto con Trump. Sto con, cioè, tu, il grande detrattore di Trump. Ma detrattore niente, anch'io valuto le persone e le solo cose in base Israele, a quello che fanno. Solo no, perché i signori eccolo. Di Israele. Ma chi sei, solo Mauro da Mantova? Ma che roba sei? Ma quali signori? Solo io valuto perché le cose. I signori intanto di Israele. Intanto è stato, no, la differenza che c'è tra la democrazia americana che bombarda e la dittatura di Assad che bombarda è che la democrazia americana tende a fare meno vittime civili possibili. Adesso questo nessuna. Non è vero. È così, è vero. La democrazia non vuole uccidere vittime. Comunque inutili. La notizia è questa. Parenzo, no, la notizia sto con Trump, è incredibile, che Trump ragazzi, incredibile. Ha fatto un attacco mirato, ha colpito una base militare, quindi non obiettivi civili, ma obiettivi militari, come si confà dai, quando si su, è in guerra. Dai su un ma corno. È patetico, dai, sto hai attaccato Trump. Hai detto sto. Che era matto, ma che sarebbe c'entra? Stato destituito, io, che non sarebbe durato. Per... Adesso Israele appoggia Trump. Trump e attacca la Siria ma e cosa, tu sei dalla parte di Trump. Sei ridicolo! Sei ridicolo! Ma cosa hai mangiato a colazione? No, amico mio, perché sono carichissimo oggi, sono carichissimo. Sai che non si dice pranzo, si dice colazione. E mi dispiace cosa anche, hai mangiato e a mi colazione? Dispiace anche che Salvini sia dalla parte del signor, in questo caso io del signor Putin. Bisogna appoggiare il signor Trump. Anche se poi a me sono non me ne frega anch'io niente. Con Trump, assolutamente. Sì, ma tu non sei contraddittorio. Sei sempre stato contro Trump. Ma cosa c'entra? Ma valuto quello che fa. Però attenzione, fermi tutti. Lo scacchiere internazionale, quello importante. Scacchiere internazionale. Vabbè, allora, vaffanculo, intervista una trans. Dai, ma hai rotto le palle. Lo scacchiere. Si chiama così, scacchiere internazionale. Dai, come si chiama? Ma siamo alla Zanzara, non lo scacchiere internazionale. Si chiama dai. Ecco, Salvini mi scrive servo. Ma come servo? Cosa mi scrivi, servo, Salvini? Allora, cosa io dico una cosa. Servo? Allora, oggi mi ha chiamato un signore che si chiama Stoica. Sembra che sia romeno, Roma. Troica. No, Stoica, no, Troica. La Troica è un'altra stoica? Cosa. Stoica, altre cose inutili, le Troiche. Cos'è stoica, da Lecce, un signore romeno che dice... Guarda, sto andando alla masseria famosa occupata dai signori Rom che dovrebbero essere calciati, almeno secondo me, a pedate sì. nel sedere. Vabbè, sì, ora certo. si trova, pare lì dentro la masseria adesso, signor Stoica. Stoica? Sì, pronto? Sì, ciao Stoica. Ciao. Ma come sei dentro la masseria? Sì, sì, sono proprio dentro la masseria. E passami qualcuno, dimmi un nome però, sì. come lo devo chiamare questo qua? Chiamami il capo banda, allora. uno dei capi famiglia, come si chiama? Allora, questo ragazzo si chiama Ion. Che abita qua in masseria sì. e sì. anche rumeno. Occupa la masseria. Ion, come si chiama? Ion? Beh, passami sto Ion. Passami sto Ion, dai. Prego. Sì, ma magari è Giovanni, quello di prima, quello che abbiamo intervistato pure noi, no? Comunque, vabbè. Vai. Ion? Pronto, salve, Buonasera. Ma tu sei Giovanni, no? No, non sono Giovanni, io sono un altro che abito qui. Un altro che abito, ma quanti Buonasera, siete? Buonasera, signor Rom. Quanti siete? Ma siamo quattro famiglie e circa 20 bambini. Pure quattro, una volta erano tre famiglie. Comunque, vabbè, quattro famiglie. Sarebbe il caso, signor Rom, di sgomberare al più presto questa struttura, perché l'avete occupata senza averne titolo, capisce, signor Rom? Sì, sì, capisco benissimo. Perché non me ne andate a casa? Sì. A casa dove? Ho capito, amico non mio. Hanno la casa, non hai però, una casa? Questo... Non hai una casa dove andare? No, guarda, tutto ciò che noi vogliamo, cari amici, sì, sì, vogliamo vedi, che gentile. Il proprietario della casa ci dia 6 mesi di tempo per lasciare la casa. Ma perché mi pare accettabile? Si può accettare? Non come si può Possiamo accettare? Accettare? No, no, no, amico mio, scusa, il come lodo si può accettare? È un lodo. Si può accettare? Come ci fu il lodo Sigonella, c'è il lodo della masseria. Allora, mi propongo io, come Staffan de Mistura, a trattare questa grande vicenda. Allora, io penso che possiamo venire incontro alle esigenze di questi signori Rom, che in modo onesto ammettono di aver fatto una piccola illegalità, ma dicono tra 6 mesi ce ne andiamo. Aspetta, fermi tutti, io però. Penso che si possa andare incontro però alle sentire esigenze da... di aspetta signori. Vediamo se l'offerta è concreta. Ion, sì. Scusami, tu parli a titolo personale o siete tutti d'accordo su questi 6 mesi? Non parlo a titolo personale. Bravo. Siamo tutti d'accordo per tutti questi 6 mesi. Dunque 6 mesi di tempo e sì. I soldi non li volete indietro? Dice che volete i soldi no, indietro. No, questo no. Ma guarda, uno di due, perché comunque anche perché è difficile trovare una casa per noi stranieri. Stranieri, ho capito, amico mio. Tu sei romeno, non sei italiano? Io sono romeno, sì. Sei romeno. Sì. Allora io dico una cosa, caro amico. Avete occupato illegalmente quella casa. Questo lo riconosci o no? Che avete fatto una cosa illegale. Illegale, sì o no? No, guarda, no. Siccome che noi sapevamo che non esistesse un proprietario. Ma ho capito, ma non è che uno va in una casa e dice: beh, non sapevo che era un proprietario e poi ci resta. Allora, siccome che ci sono tanti italiani che vanno a occupare le case popolari abusivamente, che spaccano le porte, entrano dentro, sì, e poi è vero. Non li caccia fuori. Ma questo è vero, amico. Ma perché non lo possiamo fare? Ma non è solo che per il fatto perché siamo stranieri. Ma no, ma va male anche, cioè non va bene nemmeno per quelli. No, non però va bene stiamo per arrivando a una trattativa che riprendiamo dopo la pubblicità e dopo il giornale radio. No, amico aspetta, mio. Aspetta, io dico bisogna una cosa. Bisogna fare la trattativa. Sì, la trattativa. L'abbiamo fatto di bisogno. L'abbiamo fatto di bisogno perché noi siamo in Italia da 15 anni, sì. Abbiamo fatto tante domande per l'alloggio al comune di Lecce, sì. E nessuno ci ha aiutato. Ecco perché ci obbligano loro di occupare delle case delle persone che non c'entrano niente. Ma non vi obbliga nessuno, perché non bussate come tutti gli italiani o comunque le persone che vengono in Italia? Perché non andate a trovare un affitto? Tu hai un lavoro, guadagni? Io no. Non fai, che cazzo no. Fai dalla mattina alla sera? Vabbè, scusami se te lo dico. Ma come fai? Che fai? Il coso? Che fai? Come si dice? L'ambulante? L'elemosina? Che fai? Lavoro in campagna io, lavoro in campagna con la giornata. In campagna, vedi? Sì, però amico mio, non è che funziona così, che se uno non ha lavoro o ha bisogno occupa un posto, perché altrimenti sarebbe l'anarchia, la follia. Mi stanno arrivando messaggi in diretta. Hai capito o no? Allora, caro, noi tutto ciò che vogliamo da voi e dal proprietario che ci dà 6 mesi di tempo per uscire dalla casa, altrimenti noi non possiamo uscire perché non sappiamo dove andare. Ma non è... lo facciamo per cattiveria. Ma non ho capito, non sarà per... No, facciamo una... Mi pare che riprendiamo dopo la pubblicità. Mi pare che questi 6 mesi adesso arriveremo ad un accordo, signor Rom. Parenzo si propone come mediatore, per sì, me non c'è un cazzo. Come Staffan de Mistura. Un accordo. Ok, ma i soldi li volete indietro a noi? 6.000 no, euro che avete speso, li volete no. A nostri soldi? Noi preferiamo più 6 mesi di tempo che i soldi. Allora, bravo, mi pare ci siamo, ci arriviamo, arriviamo, ci siamo ma vicini. Ma ci arrivate un cazzo, ma sei impazzito? Stiamo arrivando alla cosa. Non voglio i soldi, trattiamo sui mesi. Dopo la pubblicità, la grande trattativa Stato Puglia. Ed è venerdì. Crucia fino a notte. Non mi rompete. Lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone. Venerdì. Stronzone. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Pronto? Sono il signor Asmodeo. Mi potete passare il mio collega Cruciani? Grazie. Giuseppe, ascolta, sono Carmine, no? Bisogna che mi date il numero dell'esorcista, perché siccome io sicuramente sono posseduto da Asmodeo, però anziché essere frocio mi piacciono le buttane, però sicuramente è Asmodeo che mi dice a mignotte, mi dice Carmine, Carmine, vai a Lugano, Carmine, vai a Svizzera, Carmine, vai in Austria, sono Asmodeo, vai a trombare, Carmine, fermati, facci subito, e Carmine parte, o Karma parte, va da Roma, se ne va a mignotte là a trombare nei bordelli di tutta l'Austria, Asmodeo, vai via Carmine, non vuole più andare a trombare, vi prego datemi un numero dell'esorcista, dell'esorcista, voglio il numero dell'esorcista, Karma è posseduto da Asmodeo, dai mignotte, Asmodeo, vai via, non vuoi andare a Asmodeo, vai via. Karma, stupendo, il karma posseduto da Asmodeo. No, è semplicemente un maiale il karma, non c'è nessun... È il numero uno assoluto. Mi hanno regalato, David, l'ho notato proprio nell'intervallo di questa trasmissione, è sempre troppo lungo questo intervallo. No, invece andrebbe fatto molto più lungo, andrebbe fatto l'intervallo dalle 18.50 alle 20.49, così poi ci sono tanto un minuto di trasmissione tra le 20.49 e le 20.50, pagati allora... uguali ovviamente, con lo stesso, vitalizio. Chiamiamolo vitalizio, quello che mi dà il Sole 24 Ore è un vitalizio. No, non dire così. Diffondiamo, non è bello. Sì, sì, sì, io non ho il vitalizio. Io ho il vitalizio da Sole 24 Ore. Certo. Intanto mi hanno regalato una penna che si chiama la Talking Pen di Trump. Solo in America riescono a fare queste cose. Dovrebbero farla anche in Italia. Dovrebbe farlo Salvini, per esempio, con le sue comizi. Cioè, sono le migliori frasi di Trump, sì, in una penna che tu muovi. Che tu muovi, ti giuro, tu premi la testa di Trump ed esce fuori un discorso, ti giuro, ma è una cosa meravigliosa. Ragazzi, è la Talking Pen. Senti questa qua. Io sto premendo sulla testa di Trump, perché è in macchina adesso, non può vedere perché non ha la webcam, per tantissime, sì, persone che stanno ascoltando. Senti. I will be the greatest president that God ever created. Capito? Sarò il più grande presidente, sì, che sì, Dio abbia fatto, che, sì, Dio abbia creato. Secondo discorso, premo la testa. Look, I'm really rich. Sono veramente ricco. Bisogna farlo sentire ogni tanto quando qualcuno parla. Senti questa cosa qua, è sul Messico. Senti, sul muro in Messico, senti. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Il Messico pagherà per il muro. Allora, qui siamo però nel corso di una grande trattativa, caro Parenzo. La trattativa, sì, per risolvere. Tu fai un po' staff on the mistura, mediatore dell'ONU. Il grande mediatore internazionale. Mediatore dell'ONU. Io sono uno accordo, che sono incazzato con questi signori rom che occupano la masseria. Che occupano la masseria. Stiamo arrivando a un accordo, però non buttare benzina sul fuoco. No, stiamo arrivando, non c'è a un nessun accordo. Accordo qua. Allora, in collegamento dalla masseria abbiamo Stoica, che è un, sì, romeno, che non c'entra niente con queste storie, però conosce gli occupanti. E abbiamo il signor Ion, giusto, Ion? Chi sei? Sì. Chi c'è? Ion o Stoica? Stoican. Stoica, passami Ion. Prego, prego. Passami un attimo, Ion. Cioè, io vi dico questo, amici rom, troviamo un interlocutore, allora, che Ion, sia credibile per tu, la firma dell'accordo. Tu mi dici che voi potete tranquillamente raggiungere un accordo per sei mesi, fra sei mesi andate via, giusto? Esatto, esatto, non vuol dire che sei mesi per forza, perché se anche, certo, un domani noi troviamo un alloggio. Ma amico mio, ma il proprietario di casa vorrebbe la casa adesso, non fra sei mesi, vorrebbe la casa adesso, perché c'è una la vuole vendere, la vuole distruggere, può fare quello che vuole, perché non gliela ridate subito questa casa, Ion? Può fare quello che vuole, e noi non dove andiamo a abitare? Ma amico mio, ma che c'entra lui però? A me non me ne frega niente, ma che c'entra il proprietario della casa, che dice giustamente io l'ho ereditata? C'entra, ma scusami, se parli un po' più educatamente la prego tanto, perché non vuol dire che... Io devo parlare, tu occupi una casa, una masseria, io devo parlare educatamente. Scusami, intendiamoci qua, allora. Possiamo avere un dialogo pacifico gentilmente, se ma no... Sì. Pacifico, tu occupi la masseria, io... No, però lui ha ragione, abbassiamo i toni, intanto, perché stiamo per arrivare niente, ad un accordo. d'accordo. Allora, lui dice giustamente che i sei mesi possono essere ridotti. Mi pare che siamo molto vicini a questa cosa. Scusa, quindi... Ion, qua, i lavori che avete fatto, quanto vi sono costati? 6.000, me lo confermi? 6.000 euro? Ma di più, i di più. Che li abbiamo fatto per il nostro bene, per la nostra igienità, per i nostri bimbi. Ma... non è che il proprietario della casa ci ha detto: guarda, dovete sistemare quello, quello, quello. Sì, ma quanto vi sono costati? Quanto vi sono costati? Ma circa sui 5-6 mila euro. Appunto, ho confermato, 6 mila. Dunque, ecco, se voi fra 6 mesi andate 7 via, mila, quei soldi di, non li... di un po' di più, così riusciamo a fare l'accordo. No, in genere trattative è così. Rinunciamo ai soldi, rinunciamo ai soldi. Allora, loro hanno speso... Allora, ferma, come abbiamo sentito, loro hanno speso 15 mila euro per la ristrutturazione. Ma no, 6 mila hanno detto. Vabbè, deve dire qui... No, 5.000 euro, caro, non 15.000. No, perché non hanno dammi retta, amico mio, così la chiudiamo amico bene. Amico mio, dammi retta! Allora, signorino. Aspetta un attimo, allora, però qui abbiamo in collegamento, Ion, però devi stare qui, non devi scappare adesso, perché siamo di fronte a un punto importante. Abbiamo in collegamento il proprietario, noi siamo seri in questo caso, ragazzi, non stiamo cazzeggiando, siamo serissimi, perché io me la sono presa a cuore questa vicenda, ho scritto anche un articolo sul Libero, sono incazzato. Ho scritto articolo sul Libero? Assolutamente, sì, certo, assolutamente. Allora, c'è il proprietario della masseria di Lecce che si chiama Luigi Marzo, che è qui con noi. Luigi, arriviamo, ciao, all'accordo, arriviamolo. Luigi, ciao, ciao. Sì, sì, pronto, ciao, ciao. Stiamo ciao. Chiudendo l'accordo, Luigi. Ma allora, che accordo? Per favore, Parenzo, guardi, non dica cazzate, perché queste sono cazzate. No, hanno detto sei mesi, rimandiamo via. Coglioni, subito. Subito, fuori dai coglioni. Signor Luigi, per favore, se può avere un dialogo. Abbiamo un dialogo. Con questi signori non ci parlo, quindi... No, proviamo a dialogare, però. Troviamo un punto di accordo. Due non mesi... ci sono accordi, devono andare fuori dai coglioni. Non ci sono accordi che tengano. Ion, come rispondi? Sono delinquenti comuni. Ion? Sì, caro, sì. Hai sentito, signor Luigi, il proprietario, legittimo proprietario della casa? Sì, è un po' arrabbiato, giustamente. Sì, ho sentito, però non è che deve parlare così... Vabbè, parlo anche peggio, vi denuncerò a uno, quando vi identificano mi dovete pagare i danni, vi denuncio a tutti. Ok, signor Luigi Marzo, lo puoi anche fare, però... Certo, lo farò. Vi toglierò pure i denti di oro. Non si poteva stare qui. I nostri ritorni abbiamo non sono, cazzi vostri, io parlo così, non sono fatti che vi riguardano, io di quella casa ne posso fare quello che voglio. Questo c'ha ragione. Non sono fatti vostri. E io ti dico gentilmente che ci devi dare almeno 5-6 mesi di tempo. Senza gentilezza, io con te non voglio parlare. No, ma troviamo un accordo, perché c'è la disponibilità, mi pare, di queste persone di abbandonare... No, ma davvero... Parenzo, lei non rappresenta nessuno, no, lei ma non infatti parla io con faccio, me, non rappresenta faccio nessuno, una mediazione, provo... con me non ci parla. No, provo però, scusa, a fare Luigi, una mediazione, Luigi, tra gli occupanti abusivi e la legittima proprietà. Io sono dalla parte di Luigi, devo dire la verità. Ho capito, ma fino ad oggi i metodi tradizionali non hanno funzionato. Ma è normale, funzioneranno, non si preoccupi, funzioneranno. Cioè, verranno cacciati via, pedate nel sedere? Sì, funzioneranno. Ma in quanto tempo interverrà la forza pubblica, secondo te? Non posso dire niente al momento. Comunque, questi signori andranno via e poi si renderanno conto come che andranno via. E tu denuncerai tutti? Tutti, dal primo all'ultimo. Ion, perché non aiutati, allora tutti, mi scrive tutti. Salvini, se non escono loro martedì vado a Lecce, mi sta scrivendo in diretta in questo momento, martedì vado a Lecce col proprietario, se non escono loro, sia passato. Allora io non invito nessuno, io agisco per via legale, ci tengo a dirlo, a sottolinearlo, non vabbè, ho chiamato nessuno. No, Salvini, ma è lui che spontaneamente ha scritto. Se Salvini viene giù, lei ci va con Salvini, sì, immagino. No, chiunque venga deve andare per conto proprio, io agisco legalmente. Ho capito, ma se viene che fa? Lo caccia Salvini? Va con no, Salvini. Io non caccio nessuno. Ma un attimo, Ion, hai sentito la situazione? Come dire, ma perché non me ne andate così? Risolvete questa situazione. Sì, vabbè, scusami, l'ultimo accordo che io volevo fare un patto con il signor Luigi: almeno 3 mesi di tempo è possibile che ci sia. 3 mesi si può fare, dai. Almeno 3 mesi devo dire che è razzista. Per quanto mi riguarda, come razzista, che c'entra razzista? Nemmeno 36 ore, niente. No, ma arriviamo a un accordo, un mese. Andiamo a un accordo, chiudiamo a un mese, dai, un mese lo si dà a chiunque per trovare un'altra casa. Io non faccio accordi con nessuno. Ma Parenzo, ma chi cazzo è lui? Ma no, aspetta, fermo, risposta finale. Luigi, se tu rompi le palle quando vieni qua ti tiro un proiettile in testa. No, questo no, no. Ma cosa dice? Ion, ma cosa dice? Ma che dice? Ma è pazzo, Ion, dai, su. No, ma che dice? Scusami se lui parla... No, ma scusami, così. Niente, ma signor Rom, dai, ma non si può dire. Adesso perché deve essere violento, minacciare? Ma già sì, è in torto. Aspetta, fermo un attimo, Ion, già è in torto. Ion. Mi senti? Ion, scusami un attimo, amico mio. È già mio. In torto lei, amico su, mio, io, Ion, io non ti abbasso il telefono perché certo. Qui stiamo nel corso di una trattativa importante. Però voglio dire, se tu minacci in questo modo, questa qua è una minaccia grave. Certo. Ma pure lui minaccia, scusami, anche ma lui è roba sua, ma quella, è roba sua quella. Dalle coglioni, mica è giusto quello che dice lui. Cioè, se ci dà 3 mesi di tempo ce ne andiamo tranquillamente. Non vuol dire che parlando così... risolve le cose. Ma gli hai detto che gli dai una pistolettata in testa, un proiettile in testa, amico mio? Sì, ma se lui parla così, scusami, male, sei un razzista al totale. Ma non è razzista, vuole la roba sua. Possiamo avere un dialogo pacifico su questo tema. Non vuol dire che lui ogni volta che dice coglioni, domani Salvini la denuncia per questa cosa della pistola, ma ha annunciato. Luigi, dimmi. Per favore, poi mi mandi la cassetta perché io poi mi presenterò in questura e farò una denuncia per questo omicidio. Questo c'è. Quindi mi mandi la c'è. Cassetta. Per sì, favore. Sì, per carità. Questo mando certo. Tutto, tanto la trovi anche sul podcast. Comunque non questi problema. Rom sono come quelli di Casa Pound, anche Casa Pound occupa le case, quindi voglio vabbè, dire. Vabbè, adesso stai dicendo una cazzata. Sì, no, è così. Io Casa sono Pound anche occupa le case, cosa occupata quindi. Non va bene. Certo, io dico che non va bene. Tutte ovvio, le occupazioni ovvio, vanno male. Ovvio, però un mese di tempo a questi qui per andarsene, diciamo ma 20 Luigi... giorni, 15, diciamo 15 giorni, 15 giorni per andate con... Io non devo concedere niente a nessuno perché è tutto in mano alla Procura della Repubblica. Ion, che quindi, dici? Ion? I signori parlino con la Procura della Repubblica. Ion? Sì, la sento. Ho capito, amico mio, però qui sei passato. Non va bene, già non va eri bene. Nel torto prima, qui sei qui passato. Siamo a torto marcio. Torto mi marcio. Mi chiedo scusa di nuovo, scusatemi. Ma non c'è nessuno. Fermo un attimo, fermo. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Adesso la borsa. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Caro Davide, te e la tua maggioranza silenziosa, ma avete rotti i coglioni, la mia fidanzata è diventata come te, mi sembra di essere a casa in trasmissione, io so Cruciani e lei è Parenzo, hai veramente rotto i coglioni, per favore, dai, cazzo, dammi una mano anche te. Perché non date l'indirizzo di Parenzo, così invitiamo Rom, ladri, farabutti, stupratori e compagnia bella a casa di Parenzo? Poi vediamo se cambia idea. Date l'indirizzo di Parenzo. Allora ragazzi, qui mi sembra che la trattativa intavolata da Parenzo, ci ho provato, che già perché... è una follia, già no, è una bisogna follia non arrivare allo scontro e liberare al più presto. Aspetta, la proprietà. Tutti. Però scusami, mi ha scritto Simone Di Stefano di Casa Pound, molto pure. Arrabbiato perché io mi stanno scrivendo. Arrabbiato perché io ho detto che Casa Pound fa come i Rom, cioè occupano quando le case. Quando occupano le cose sbagliano pure mi loro. Mi ha scritto non ci rompere pure... le palle che ti mandiamo sotto la Nina Moric e sono affari tuoi, mi ha scritto. Vabbè, Simone quello, Di Stefano. Figure, se fosse una solo minaccia, se fosse solo minacciato di mandarmi la Moric. Beh, sai, signori di Casa Paolo. Che adesso hanno trovato una nuova paladina Nina Moric, questo per capire come sono ridotti. Vabbè, dai, allora la trattativa è fallita, non ci doveva nemmeno no, essere non è fallita la trattativa. Ancora. Aspetta, fallita che... completamente. Fermo un attimo. I will be the greatest president that God ever created. Allora, Matteo Salvini con noi. Sì. Ecco, ci mancava. per buttare la tua benzina sul fuoco. Eccoci qui, eccoci. Almeno il signor Rom, a voi sì, allora, che ci ascolta pure. Allora, io dico una cosa, ci mancava quello che abbiamo Salvini, sentito per mi sembra un po' di pace, mi sembra una gravità inaudita. Beh, no, oggi è l'uomo della pace, dice che ci vuole la pace e non bisogna essere né dalla parte di né dalla parte di Trump né da quella di Putin, sì, comunque da Trump e Putin sceglie la pace. Salvini, vabbè, che... allora io voglio dire una cosa, quello che abbiamo sentito nella parte finale dell'intervento del signor Rom, mi pare una cosa assolutamente grave, Salvini, no? Molto grave, molto. Ma è follia. Ti aspetta un proiettile in testa se vieni a casa tua, mi sembra una cosa da quarto mondo. Peraltro oggi parlavo di questa frizzante comunità Rom con alcuni imprenditori del Salone del Mobile, sì, a Milano, che sì, portano il Made in Italy nel mondo, perché proprio questa settimana sono state arrestate, almeno ne è stata arrestata una e le altre otto denunciate, 9 donne incinte Rom, sì, sì, a Milano, che scippavano gli imprenditori. 8 di queste sono a piede libero perché da incinte non possono essere messe in galera. Il Corriere scrive un numero imprecisato di figli. Io li porterei via tutti i figli a queste indegne mamme, però ecco, diciamo, cioè, per esempio i figli, Rom, i figli di quelli che stanno in, nella masseria vanno, sì, vanno tolti tutti? Assolutamente sì. Io non so quanti figli abbiano quei presunti padri e quelle presunti madri, ma se nascono in questi presupposti di illegalità non so come possano crescere. Fossi nel Tribunale dei Minori di Lecce andrei lì a fare dei bei controlli, dei bei sequestri. Lo deciderà il Tribunale dei Minori. Mi sembra di capire da quello che dicevi prima a Parenzo fuori dall'onda che vuoi denunciare questo signore per quello che ha detto? Vedi te, ti par normale dire in diretta a qualcuno se viene a casa tua ti aspetta un proiettile in fronte? Sicuramente non è normale, vada da qualche altra parte del mondo a dire. Voi avete parlato brutto di noi. Ma lei che lavoro fa, mi scusi? Vabbè, quanti figli ha? 40 figli circa. No, ma dai, io non scherzare, dai, su, quanti figli hai? Ma scusami se Matteo Salvini, da Roma. Lo conosco benissimo io. Ma che conosci, dai, non dire sto. Io non ho piacere di conoscerla, le sto semplicemente chiedendo che lavoro fa e quanti figli ha. Io 40. Dai, su, non fare lo spiritoso, dai, Ion, qua. Cioè, voglio capire una cosa, Io tengo 4 figli nati a Lecce, a Vidofazzi di Lecce, a un ospedale. Non sono nati qui alla masseria come dice Salvini. Sì, ma a me non interessa, ma lei come pensa, lei che futuro pensa di dare a questi 4 figli, mi scusi? Come? Che futuro vuoi dare a questi 4 figli? Che futuro pensa di dare a questi 4 figli, non facendo niente futuro... dalla mattina alla sera? Se il comune di Lecce non ci dà una mano, noi che dobbiamo fare? Il comune di Lecce, figlio mio, torna a casa tua, il comune di Lecce ha tanti italiani a cui pensare. Non è che puoi essere tu che sporni i figli voi, come uova di Pasqua. Siete voi quelli che ci obbligate di andare a rubare e di occupare le case delle persone, perché lì fanno la discriminazione dai zingari. Prima di mettere al mondo un figlio, sai che l'italiano prima di mettere al mondo un figlio pensa come mantenerlo? Tu che l'hai messo al mondo 4, non ti sei mai posto il problema di come mantenere questi 4 figli? Però scusami, non è che io non dico ti preoccupa, lei i bambini no, stanno no, bene. Siccome paghiamo noi per te, quei 4 figli dovrebbero essere dati ad altre famiglie. Ma non ti preoccupare, signor Caro, perché non mi porti tu da mangiare per i bambini. Ti vuole togliere i figli, certo. Si dice Salvini. I bambini tengono 10 anni, li ho cresciuti fino decide, adesso, Salvini. Sono capace a crescerli anche... Ma che fanno? Vanno a scuola o no? Vanno a scuola, con un papà così. Vedremo. Sai come vengono su bene, sai. Però come scusami Ion, io dico una cosa, amico mio, tu hai occupato una casa e sì, dopodiché non te ne vuoi andare, già hai sbagliato. Tu dici lo fanno anche tanti italiani, d'accordo, ma non è una giustificazione. No, certo. Il proprietario rivuole questa casa, voi dice che avete speso dei soldi, nessuno ve l'ha chiesto di spendere quei soldi. Ma scusami, ma se il proprietario della casa lo preghiamo tanto e mi chiedo scusa della parola prima. Ma non è chiedere scusa, lei detto, l'hai pensato, è gravissimo quello che hai detto, è gravissimo. Almeno 2 mesi di tempo, se no noi di qua non prima hai detto 6, poi 2, non sei credibile. Dai, prima diciamo hai detto 6, poi 3, diciamo un mese, se sei mesi non è d'accordo per 6 mesi, almeno 2 mesi non ci si può dare ma di tempo. Ma amico mio, ma non è che siamo mesi per trovare una ma casa, non siamo mi al sembra... mercato qui, ma non siamo al mercato, però lui dice 2 mesi. La casa ai zingari, non gli danno la casa, ma non me ne frega niente, mandatela a cercare come tutti gli altri la casa, amico mio, non è che nella casa non c'è. Allora a questo punto se il comune di Lecce non far niente per noi, noi lasciamo la casa questa e andiamo a occupare un'altra casa abbandonata. Pure, un altro, altro reato. Andiamo a continuare così sempre, per dalla vita. Se c'è un giudice del Tribunale dei Minori di Lecce all'ascolto, va per questa masseria e salvi quei bambini. Ma adesso non puoi dirlo tu. Andiamo ma... a occupare un'altra, perché il Comune di Lecce non ci vuole proprio vedere a noi. Comune di Lecce. Anche perché ma i bimbi sono nati a Lecce. Che lavoro fai? Che lavoro io fai? Io lavoro con la giornata, non si dice. Tu che lavoro fai? Scusami. Fa il politico. C'ha ragione. Gli italiani mi hanno eletto per fare il parlamentare. La, la domanda del signor Rom ci sta. Che lavoro fai? Ci sta. Tu lavori paghi le tasse. Quante tasse hai pagato l'anno scorso? Scusa. Io? Quante tasse paga le tasse, dai, ovvio, non si preoccupa lei della mia vita, signore. Non si preoccupa. Ma il mio problema è che se ti mantengono gli italiani, quante tasse hai pagato? Non lo hai pagato l'anno scorso, non hai pagato niente. Non sono di cosa che vi riguardano. Ma non ti riguardano, ci riguardano. Se hai occupato una casa, ci riguarderanno pure. Chiedi al comune di Lecce. Ma scusami, tu ti vedi in Svizzera un dialogo del genere? In Svizzera, in Austria, signor Rom, mi dia retta. Signor Rom, mi dia retta, guardi. Un dialogo del genere in Australia, tu te lo immagini? Non lo so, adesso in Australia non lo so, però... Viene messo sul primo barcone e rispedito là da dove è arrivato. Beh, in Romania è difficile. In Romania non c'è l'acqua. Però io... Ma, signor Rom, io le consiglio una cosa, guardi, perché sennò qua il clima si fa incandescente. Secondo me, provate 20 giorni, 15 giorni. Ma cosa provate? Fai le valigie stasera e togliti dalle balle. Andate via tra 15 giorni, facciamo un appello al comune che magari vi aiuta. Ma ho capito, ospitali tu, ospitali tu, ospitali tu, ospitali tu. Ma io non ho lo spazio, non ospito proprio nessuno. Allora, Ion, io dico una cosa, perché domani mattina non fate una cosa? Così evitate anche dei guai, ma tanto i guai non ce li avete, perché in Italia non funziona cazzo. Ma dove vanno questi bambini? Mi fa parlare anche a me? Beh, hai parlato abbastanza, direi, no, Ion? Dai, allora, dimmi. Le cose sono due. O ci trovate voi un alloggio... Beh, ma noi, perché dobbiamo il fatto che voi venite a pagare per questa conversazione, venite pagate voi. Come paghiamo per questa... Come paghiamo per questa cosa? Perché? Voi intanto guadagnate un pane sulle nostre spalle. Ma che vuol dire? Cioè, perché facciamo il programma? Perché cioè la colpa è nostra che guadagniamo sul fatto che voi parlate. Ma dico... non esagerare, non gridare. Ma così non hai pensare che sta messo sul primo aereo destinazione ignoto. Vabbè, adesso però turno, questo, dai. Se ci mandate sull'aereo mettiamo una bomba come all'ISIS. Non esasperiamo i toni adesso, non piace così, no? Non esasperiamo i toni. Io così metto una bomba. Vabbè, non dire cazzate, Ion, dai. Ma questo può essere arrestato stasera? Quello il mio lavoro è quello, io creo dei bombe. Lavoro sì, con vabbè, il... sì, lui crea vabbè, bombe. Vabbè, sta dicendo cazzate. Qualcuno della questura di Lecce all'ascolto, andate a prendere sto signore, imbavagliatelo e speditelo. Sì, però io, Ion, io dico una cosa del genere, ma perché non ve ne andate, veramente? Fammi parlare con qualcun altro dei tuoi là intorno. Ma sì, me ne voglio andare, ma se il padrone non ci dà 2 mesi di tempo, almeno... Il padrone. Ma scusa, ma i bambini, ma c'è il viaggio, non c'è. Ospitami tu a casa tua o almeno dacci di 2-3 mila euro per scusami, io però non posso soltanto dire che oggettivamente gli ex amici di Salvini di Casa Pound a Roma fanno la stessa cosa, ma cioè occupano le case, dai, su, posso dire, mi dispiace che Di Stefano si incazzi, ma Casa Pound occupa le case a Roma per gli italiani che hanno bisogno, sono gli amici di Salvini. Allora vorrei sentire lo stesso livore che Salvini ha giustamente nei confronti. Fa una cosa abusivamente, va cacciato. Perché va questo cacciato. Qui è un criminale, questo vorrei avere lo stesso livore. Parla di bombe, di proiettili. Vabbè, ma i proiettili l'ha detto spontaneamente. Spontaneamente, da, le bombe l'ha detto così per fare il coglione, ma comunque è grave lo stesso. Vabbè, sì. Portate via questi 4 poveri bambini a questo padre degenere. Chiedo solo questo. Ionna. Salvate quei bambini. Ma cosa salvate c'entra questo adesso? Chiediamo scusa. Sì, chiediamo scusa. Troppo facile. Allora, le cose sono due. O vi pagano o vi danno qualche mese no, di tempo. No. Orci da 2 mesi di tempo, orci da 1.000 euro per viaggio, per andare a fare una vacanza. Certo, ma anche una Mercedes. Mi pare un po' eccessiva questa cosa. Dobbiamo occupare case anche là. Vabbè, ma ciao Ion. Ci occupiamo case dappertutto. Ciao, vabbè, ragazzi. Ciao Matteo, ciao. Lasciati un parento e alla defecarsi io non ci penso. Dategli fuoco a sti zingari di merda! Dategli fuoco! Ma che cazzo sono dei pecoroni a Lecce? Sono delle pecore i leccesi, sono delle pecore! Ma come cazzo fanno a far comandare a sti zingari di merda? Come si fa? Ma come cazzo si fa? Leccesi, siete dei pecoroni! Tutti a Lecce coi manganelli! Vanno mandati via a fucilate, a fucilate vanno mandati via! Io non capisco perché non vengono arrestati sti cazzi di cazzo di rom che hanno occupato una proprietà privata, arrestati, messi in galera, buttata via la chiave, magari in Romania. Allora ragazzi, siamo qui. Beh, andiamo... questa gente che commenta in questo modo comunque è agghiacciante. Beh, sarà dire agghiacciante, adesso. Beh, una parte ma d'Italia. Ci sarà la rabbia, è una parte d'Italia. Ma che vuol dire una parte d'Italia? È una parte agghiacciante d'Italia, però. Non è che siccome quelli sono in torto e hanno commesso un abuso, allora è lecito dire diamogli fuoco. Ma questa è una porcheria. Ma dai. denunciateli se avete ma il coraggio. No, ma denunciateli certo, se avete ma la certo, forza, il coraggio, la determinazione, certo. Per carità. Qui siamo in un posto estremamente libero, ma vabbè, ma dove c'è spazio c'entra, anche critica. Per le estremità, ma e dico bene, ai tuoi amici di Casa Pound, no, perché pare amici, che di Stefano ti mandi qualche ci messaggio. Ci conosciamo, certo, ecco, benissimo. Comunque... Sì, per lavoro, io certo. Io ho semplicemente detto aspetta, ai signori però, di Casa Pound aspetta un secondo, che però. Sono come i Rom, perché loro occupano le case Parenzo, per gli due italiani. Punti, Casa Pound come i Rom. Ma certo, no, perché dai. Occupano le case degli italiani, per gli italiani. Loro solo che lo fanno per gli italiani bisognosi in passato hanno occupato delle case. Male, e lo rivendicavano male, pure, male, lo rivendicavano. Amici di Salvini, amici di Salvini, ex amici di Salvini, ex non lo so. Fermo un attimo, fermo. I will be the greatest president that God ever created. Sì, ma come cazzo ci fa andare avanti? Sennò questo mi ricomincia sempre Simone dallo stesso. Simone di Stefano chiede a però ogni tanto dovreste anche farmi spiegare e parlare. Sì, incazzato, vabbè, un giorno lo invitiamo e parliamo di tutto. Dai, un giorno lo invitiamo ufficialmente e parliamo di tutto, della Moric, di tutte le cose che volete, eccetera. Sì, grande battaglia. Però, facciamolo, sì, facciamolo. Non adesso, stasera, non me lo prendo di coglioni. Non adesso, però facciamolo, perché sì. Per me il Casa Pound è come i Rom, occupa le case. Dove eravamo qua? Non ho chiamato nessuno? No, Franco da Bologna, vai, Franco. Franco, dimmi. Ciao Cruciano, ciao Parenzo. Vai, dimmi, dai, veloce. Sì, ti dico veloce. Ascolta, io ho avuto uno sfratto sì. Il mese scorso sì. In cui ero d'accordo con un funzionario che mi avrebbe dato qualche giorno. Quando sì. Sono lì a casa mia mi hanno buttato fuori, in mutande, non... Ma certo, ragazzi. Sì, d'accordo, qualche giorno gliel'hanno dato però. Ma qualche giorno, purtroppo. Questi è 20 giorni che occupano quella sì, casa, 6 mesi, 7 mesi. Infatti, adesso solo che magari ci sono tanti bambini, giustamente, ma devono uscire. Ci nessuno... sono tanti bambini? Ma che vuol dire che ci sono tanti bambini? Uno con la scusa detto, dei bambini, sono scudi umani quei bambini, sono come ma gli scudi umani, sono dire, come gli scudi umani utilizzati, ma non dire sì, chiaro, certo, assolutamente, il concetto sono è lo stesso, bambini, sono utilizzati come scudi umani, come scudi umani, come li utilizzano spesso le persone che tu conosci molto bene in quei territori lì, che utilizzano i bambini come scudi umani e i Rom utilizzano i bambini come scudi umani. Spesso li fanno andare in mezzo alla strada a chiedere l'elemosina e spesso li utilizzano per non essere sfrattati. O forse le donne incinta? E le donne incinta? Dai, no, Franco, no, no. Dimmi. Scusa, Cruciani, scusa. Dimmi. Ascolta, io ho un paio di anni che sto passando una vita proprio di infame, proprio di una vita pregio di... non so che dirlo. Il cioè le pezze al culo, Franco, diciamola tutta, hai le pezze sì, al culo. Beh, ti dico. In che senso hai le pezze al culo? Spiegami. È giusto dire ogni tanto ho le pezze al culo, sono sì. Ridotto come un poveraccio, ho le pezze al culo, non ho un euro, bisogna dirlo chiaramente, no, sì, sono in difficoltà, ho le pezze al culo. Te lo dico perché il mio sbaglio più grosso della mia vita che è stato fatto? Quello di collaborare con la giustizia. Cioè in che senso? Scusa Franco, spiegami. Praticamente io sono stato così, sequestrato, massacrato di botte, lasciato in mezzo a un campo come morto. Mannaggia. Dopo mi hanno trovato per caso. Vabbè, che c'entra questo? Allora, aspetta, ti spiego. Io praticamente è partita una denuncia di ufficio, ok? Facendo la denuncia di ufficio, praticamente io ho fatto una denuncia perché ho riconosciuto i miei aggressori. Vabbè, adesso però non facciamola breve. Qual è il punto fondamentale? Perché sei ridotto così male? Cioè, perché quanti soldi hai in banca? In banca quanti soldi hai? Meno sotto 100 euro. E come fai a campare quotidianamente? Parenti, amici, che fai? Con nessuno, Varese, con nessuno, mi arrangio da solo. Luciani, comunque uguale, ti arrangi da solo, che vuol dire ti arrangi da solo? Come campi, uno esce la mattina, va a fare colazione, sì. Che ne so, poi mangia qualcosa, va al supermercato a comprare una sì, pasta, una cosa. Sì, qui 20 euro a settimana, qui 15 euro, qui 30 euro. E la casa dove abiti? Adesso dove abito? Però non meglio che non te lo dico. Dimmi, dove abiti? Sì, la macchina. Abito neanche la macchina, non ce l'ho più la macchina. E dove abiti? Da un'amica? In un cesso? In sotto i ponti? Dove abiti? Sotto i ponti. Sotto i ponti, che vuol dire la classica cosa sotto i ponti, però tecnicamente. Dico perché, perché quando io ho fatto questa denuncia. No, qua, però adesso non andiamo di nuovo a tutta la storia, Frank. È complessa la cosa. Tu stai dicendo comunque il concetto è molto semplice. Il concetto è che tu, pur non avendo una casa, non vai a occupare un edificio, diciamo, no? Sì, sì, sì. Certo, bravo. E mi hanno buttato fuori così in mutande dicendo guardi che io non posso neanche andare a trovarmi un appartamento perché ho dovuto scappare da dove ero. E poi ci sono i rom, e poi ci sono i rom che occupano le masserie, ti rendi conto o no? Sì, vabbè Franco, però, ti saluto, però, Francesco dalla provincia di Matera, dai Francesco. Pronto, Cruciani? Dimmi Francesco, buonasera. Dimmi. Volevo dire due cose. Intanto a Parenzo cosa ne pensa del fatto che il sindaco di Ventimiglia non dà da mangiare agli immigrati, ai profughi? Non lo so, anch'io ho letto questa notizia. No, non so se è vero, però. È vero. Non l'ho verificato e quindi. Sì, ma non l'ho verificata personalmente, quindi non lo so. Se fosse vero questo. Perché sicuro se la cosa? Hanno intervistato il sindaco. Ecco, se è vero è una vergogna. Sì, no, è così. È disumano. Se io fossi stato un parente di quel signore anziano che hanno occupato la masseria, sicuro che dopo le parole che ha detto quel coglione di Zingaro che mi sta facendo diventare un razzista, io andavo lì stasera con 5 litri di benzina, li bruciavo via. Eccolo qua. Sicuro. Sì. Eccolo qua un altro. Scandalizzati anche per questo. Non mi devo scandalizzare di niente. Scandalizzati per quel criminale rom che ha parlato, ma scandalizzati allo stesso livello di questo imbecille. Della gente del paese. Ma io mi meraviglio di lei. Io mi meraviglio di lei. Io mi meraviglio di lei. Io mi meraviglio di lei. Benzina li meraviglio. Io mi meraviglio di lei. È bello il modo di rispondere di quello. No, non è bello, ma mi meraviglio di lei. Mi meraviglio di lei di quello che dice. Non ti devi meravigliare. E invece sì. Portano a diventare un razzista. No, non ti porta a diventare. Ci vuole la legalità, il ripristino della legalità. Fermi tutti. Buonasera, amico Rom. Sono Parenzo. Per lasciarti andare. Di centri sociali, bruciarli tutti col napalm. Suona una fisarmonica col napalm. Fiamme nel campo rom. Napalm. Tua madre lo diceva, non andare su YouPorn. Napalm. Donald ci ha messo 3 mesi per iniziare a bombardare, ma direi non male, dai, pensavo peggio. Parenzo, Giulietto Chiesa non aveva prove di quello che stava dicendo in trasmissione, te l'hai aggredito. Invece Trump quali prove aveva per bombardare? Per bombardare. Boom, boom, boom. Il Donaldone ha schiacciato il bottone. Siamo al top. Siete morti, siete morti! Stai zitto che non c'è nessuno! Fermi tutti! I love China! I just sold an apartment for $15 million to somebody from China! Ancora? Our leaders are stupid! Our politicians are stupid! I nostri leader sono stupidi, i nostri politici sono stupidi. Questa è la meravigliosa penna parlante, talking pen di Trump. Ci sono 8 frasi chiave di Trump. Bellissima, stupenda, grande regalo. Non so chi me l'ha fatto, ho aperto una scatola di fretta. Lo ringrazio tantissimo di questo regalo originale dall'America. The talking pen. Pagato dagli americani. Pagato dagli americani. Pagato dagli americani. Made in Hong Kong comunque questa penna, Made in Hong Kong. Naturalmente. Dove andiamo ragazzi? Ma ne vogliamo parlare della Fedeli? Rimandiamo la Fedeli, vi prego, perché è una cosa incredibile quello che è successo. La Fedeli, il ministro Fedeli, che doveva ricordare. Detto può chiamarmi ministro, cioè, mi pare una cosa così. No, non va bene. Perché ha chiesto a quel giornalista, il quale però si è subito messo in una posizione. No, ha detto che giusto, si chiama scusi, di solito 90 gradi. Ma di perché? Solito. Ma se è l'educazione, non c'entra niente. Non è l'educazione, niente. È la sottomissione, è diverso. Sentiamo. Ma quale sottomissione, dai? Ministro Claudio Tucci, Sole 24 Ore. Io riesco a dirle di chiamarmi ministra, no? Ministra, è complicato, grazie. Ha ragione, ministro? Ma va bene, ha ragione, ministro? Ma perché stai montando ha un caso? Ha ragione, ministro? Dai. Allora, c'è un signore che si chiama Franco Ziliani, che fino a poco tempo fa mi dicevano che mi hanno riferito che facesse il giornalista di vini, si occupava di vini, il quale scrive di noi: ascoltate questo disgustoso battibecco tra David Parenzo e Giulietto Chiesa alla Zanzara. Se pensate che questo programma radiofonico sia una cosa seria e non qualcosa che squalifica il giornalismo italiano, poi lui non ha molto chiaro che cos'è il giornalismo, che cosa non è, si occupava di vini. D'altra parte non si può chiedere molto, signor Ziliani. E la poca dignità e serietà che le è rimasta, bene, correte d'urgenza a farvi visitare da uno strizzacervelli, perché avete le rotelle fuori posto. Boh. Cioè, o qualcuno pensa che sia squalificante per il giornalismo italiano il dibattito tra Parenzo e Giulietto Chiesa, oppure è matto. Questo programma è la rappresentazione grottesca e putrida dell'informazione italica, urlata, cialtrona, caciarona e senza alcuna credibilità. Una pseudo-informazione da fogna. Ma di chi parla? Di noi. Ah. Poi, questo non è un programma di informazione, no, nemmeno cos'è? Di intrattenimento. È no. Merda allo stato puro. Beh, imbecillità forse... trionfante, beh. Volgarità, idiozia. Questo forse... No, ma... io però interpreto queste cose in maniera straordinaria, capito? Cioè, mentre per lui assolutamente, mentre per lui sono delle cose disgustose, per me sono delle cose meravigliose, capito? Quando uno mi dice merda, imbecillità, volgarità, idiozia, dico sì, è tutto straordinario, però è vero, hai ragione, ma è tutto straordinario. Silvio da Roma, vai. Oh, Bruciani, dimmi. Scusa che sono fuori tempo perché ho aspettato un pochettino. Vai, quello che vuoi, qui non c'è tempo. Della masseria di Lecce. Sì. Avevo sentito l'altra sera sulla vostra radio che qualcuno aveva proposto di mandare il cosiddetto autospurgo con i liquami da cospargere nel perimetro di quell'abitazione. Mamma mia. Come mai? Vedi che poi non è stato sottoposto al proprietario della masseria. Diciamo, le minacce, le bombe, diciamo, le che è una, diciamo che è un provvedimento un po' forte questo qua, e comunque non risolverebbe nulla, magari quelli si abitano anche alla puzza di merda, insomma, no? Oddio, guarda che è abbastanza forte, sapere di assumere odore di fogna non è per niente piacevole neanche per loro, insomma, sai, nei campi rom, amico mio, non si sente un olezzo di Dior, come dire, no? Non ci sono i profumi, ma quello no? Neanche a casa tua, ma non ci sono grandi profumi, questo è vero, profumi tu che parli di Tarzanelli, non ti lavi mai, hai i capelli sporchi e fai le pulci, la parola non è usata a caso ai rom, casa mia non può essere, è il bue che dà del cornuto all'asino qua. E che poi provoca appunto le cosiddette guerre tra poveri, e che manca la regolamentazione nella gestione di questi avventurieri disgraziati che poi vanno a delinquere e quant'altro. Il problema vero è questo, e poi ci mettono le condizioni a noi di ammazzarci tra di noi nelle guerre ideologiche nostre e quant'altro. Non ho capito nulla, però comunque va bene. Però, ha fatto la super cazzo. Ha perfettamente ragione. In ogni caso, proponetelo al proprietario della masseria di provarci, tanto non ha nulla da perdere. Cioè, non ho capito che bisogna fare. Sparge un po' di merda davanti. Cioè, dovrebbe portare la merda. Una decina di 10 autobotti scapperà tutto il paese, non i rom. Daretta a me che così sarà. Va bene, Sergio, provincia di Monza. Silvio propone la merda. Merda per i rom. Sergio dalla provincia di Monza, vai. Oh, sì, ciao proposto, ragazzi, volevo fare un intervento telegrafico. Sono molto felice della telefonata che ha fatto il rom all'inizio della trasmissione. E volevo fare una felice, proposta. Perché felice? Non ho capito. Felice che sei divertito, ti sei divertito. C'è ancora, cioè, prima cosa, poi c'è ancora gente che ragiona come Parenzo e quindi si dimostra tutta l'imbecillità di Parenzo, per cui volevo fare una buonasera, benvenuto, molto lieto. Volevo semplicemente proporre tutte le volte in cui Parenzo farà un minimo accenno di difesa a questi personaggi da qui a venire per il prossimo periodo. Sì, però voi non vi siete accorti, scusate, non vi siete accorti della grande opera di mediazione che ha fatto oggi Parenzo, sbagliando, secondo me. Sbagliando. È stato patetico, no? Secondo me è un modo di Ho capito, ma una grande buonasera e benvenuto. Una grande operazione artistica, una grande operazione, come dire, mediatica, artistica e nello stesso tempo, come dire, anche creativa, se vogliamo. Non è che possono tutti fare la parte di quello, no la parte, credendoci, ovviamente. No, ma davvero penso che in questi casi. Però fermi tutti, ragazzi. Fermi come tutti, per gli italiani devo sentire una mediazione. Devo sentire una cosa, aspettate, devo sentire. I will be the greatest president that God ever created. Bene, questo è sempre importante. I will be the greatest president God ever created. Che Dio ha mai creato. Vai, Sergio, che vuoi dire? Una semplice proposta. Da qui all'eternità, quando Parenzo farà un accenno di difesa a queste persone, indiscriminatamente, chiunque chiami per fare un qualsiasi tipo di intervento, intervenga dicendo: Parenzo, vai a cagare. Semplicemente. Così, Parenzo, vai a cagare. Buonasera e benvenuto. Grazie per aver chiamato. Buonasera, signor Sergio. Buonasera, Sergio. Va bene, ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi. Allora, Bobone Vieri racconta le sue avventure sessuali senza fare nomi e cognomi, ma dicendo alcune cose. Quattro ore con questa che era affamata, quella aveva due zinne così, una mi picchiava, niente di particolarmente sconvolgente, insomma, cose normali che avvengono per chi ha frequentato tante donne, come Bobone Vieri. Vabbè. Minimo ci devo stare 3-4 ore con questa, eh? Ah sì, eh? Se no non si incazzava come una iena. Non voleva mandare via. Sono uscito dalla camera. Ah sì, eh? Sì, sì. Allora, Bobo, vieni, le chiavi sono qua. E non escono. Questa è affamata, eh? Cavolo, non si direbbe. Cioè, no, no, grinta, grinta e cuore. Grinta e cuore. Qua c'è due zinne così come sto. Vabbè. questo si evince anche dalla foto. Bella ragazza, tutte belle donne. Tutte belle queste donne. Queste me le mettevo in faccia, oh. Vabbè. Cioè, io come suonavo la porta, lei apriva e faceva... Però questa ha un brutto ricordo. Veramente? Brutto... Mi picchiava questa. Ma ti picchiava? Mi frustava. Ma durante? Questa veniva con una frusta. Ma giurami. No, ti giuro. Poi sto sudando. Fai sudare. No, poi posso dire, la maggior questa parte... Questa mi frusca... La maggior parte di quelle dell'anno scorso non le conoscevo. Questa la conosco. Non la guarderò mai più con gli stessi occhi. Questa mi frustava. Mi frustava sul culo questa. E tu? E io scappavo. Oh, allora, Enrico da Torino, vai Enrico, vai ragazzi, allora, vai ragazzi, forza, anima e coraggio, siamo carichi ancora, tante cose da sentire, tante cose da fare, cioè abbiamo un sacco di cose ancora, amico mio. Certo, certo, sento. Vai, vai. Io dico solo questo, intanto per me è tutto il mondo paese, no? Che è bravo e sensibile da persone. No, però amico mio, dobbiamo sentire, la radio se non si sente, qualche sì, volta si può anche... Come dire, no? Si può anche percepire, fare, però nel caso tu devi parlare chiaramente, altrimenti non si capisce una sega, caro Enrico. Allora, parla chiaro, mettiti in una posizione migliore, dai. Sono fermo. Dai, dimmi, forza. Allora, parliamo chiaramente. Aspetta, ecco. Dai, Daniele, io ragazzi non sento, sarò sordo io, non sento. Dai, Daniele, provincia di Treviso. Pausa, devo andare a fare la pipì, però. Chi se ne frega, però. Chi se ne frega? Se magari non faccio. Ma perché non ti porti il pappagallo dietro? Questo è interessante, però. Il pappagallo dietro, questo è bellissimo. Mi sa che me lo porto, sai, mi compro un pappagallo per portarlo in diretta. Tu hai 51 anni. Voglio pisciare in diretta col pappagallo. Sì, se mi scappa non mi alzo. No, lo faccio nel pappagallo. Ma cosa serve? No, la faccio nel pappagallo. Anzi, dovrebbe esserci un pappagallo per Parenzo pagato dall'azienda a disposizione, perché non si può alzare un pappagallo sotto. La faccio invece le di telecamere, alzarti... Qua ci sono le telecamere, non si ma può. Che c'entra sotto il tavolo, la fai? No, faccio non si sotto vede. Il tavolo, non faccio queste porcherie io. Ma che pappagallo, che cosa c'entra le porcherie col pappagallo? Luoghi, nei luoghi preposti. Ma anche il pappagallo è preposto, scusami. No, è preposto quando hai l'età tua, cioè 51 anni, sei messo ridotto come sei 50, ridotto tu. 50, dai. 50. Daniele, vai, Daniele, dimmi. Sì, vai. Allora, intanto volevo dire al signore di legge, là, il titolare della masseria, che deve mettersi l'anima in pace. Perché? Per cui, cioè, non sono un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi. Quando andranno, andranno. L'unico ma che vuol che dire? Ma vaffanculo, ma che perché dici così? Scusa, perché si deve mettere l'anima in pace? Chi è che li tira fuori? Chi è che li tira fuori? La forza pubblica, domani mattina, ragazzi! La forza pubblica, domani mattina, certificato di proprietà! Certificato di proprietà, carabinieri, camionette dei carabinieri, via, sgomberare, dai, su vabbè, ragazzi. Ma però non è così. Non è così perché è l'Italia, no, perché siamo in Italia. Chi posso, se ne frega? Ma no, perché non è così. Ce ne fottiamo. Poi, l'unico che può risolvere la situazione è Parenzo, bene. Perché li può ospitare a casa sua. E poi, adesso... tra l'altro, lui è amico di certe famiglie ricche dei Rom, per cui poi beh, no, questo non credo, non lo sapevo. Ma scusa, questa non lo, questa è la diffamazione. Che hanno tante stanze. Questa è una diffamazione belle buone. Amico di famiglie ricche di Roma, è ma una diffamazione. Che c'entra diffamazione? Penso che sia questo. Una diffamazione. Non c'entra un cazzo questo, dovrei sentire tu com'è a Perugia, è una diffamazione però. Questa vabbè, è chiaramente una diffamazione. Rocco da Milano, no, va bene, non è che devi dire, va bene. Uno diffama, dici va bene, passiamo al prossimo. Rocco Milano, vai. Pronto? Dimmi Rocco, dimmi. Sì, ciao, buonasera. Niente, ciao Giuseppe, niente. Ciao Parenzo. Non me ne frega niente del ciao, niente. Hai già perso 20 secondi, niente. Vai Rocco. Posso parlare o no? Allora niente, vai. Siete presente quella masseria che hanno occupato giù a Lecce? Presente? Sì, abbiamo presente. Sì, scusaci. La possiamo bombardare? Beh, insomma, questa è una cosa un po' forte, bombardarla, eh. Bombardarla è un po' fortina, direi. Scusa, la bombardiamo, ci mettiamo d'accordo, facciamo una colletta. Ma che vuol dire bombardarla? Cosa vuol dire concretamente? Cosa faresti se vengono a casa tua e ti dicono questa è casa mia ed è pure un... Io chiamo la forza pubblica e poi mi incazzo come una bestia, ma davvero come una bestia, se non intervengo. Nel momento in cui la forza pubblica interviene ci vuole il popolo che si deve mettere... Il popolo, ma il non popolo. È qui, non è qui, no, non è che uno chiama l'andrangheta, non è che uno può chiamare la mafia come è successo, ci hanno raccontato in alcune parti d'Italia. Purtroppo ci sono cose che non funzionano e bisogna fare in modo che funzioni. Ma mosca di merda che è di fianco di Parenzo. Ma che c'entra? Buonasera e benvenuto, grazie per essere intervenuto alla trasmissione. Buonasera. Ma perché? Saluti sua sorella. Mia sorella sta bene, ma meglio di te che sei un po'... Buonasera. Grazie per aver chiamato alle 20:13 di questo venerdì, perché sì, il suo contributo è importante. No? La ascoltiamo. Si può bombardare il cervello, lei, che così magari qualcosa trova, guarda, forse, quella tabula rasa che c'ha lì dentro? Vabbè, allora che vuoi, Rocco? Non ho capito. Vanno bombardati? No, niente, vanno semplicemente bombardati e basta. Sì, semplicemente. Ma tu... Sei fatto qualche canna, questo? Fermi. Almeno condividi, no? Fermi. Mandami un po' qua. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Attenzione! Allora, le donne dell'est. Io ho sposato una donna giapponese, siamo insieme da 20 anni, avevamo 20 anni quando ci siamo conosciuti, ne abbiamo 42. Mi arrapa più oggi di 20 anni fa, ha fatto un figlio, non ha preso un grammo, lavora dalla mattina alla sera, si fa un culo della Madonna ed è sempre dolce, sorridente, mi consola di tutti i cazzi che ho per il lavoro e per la vita, è stata dietro i miei genitori morti entrambi di cancro, meglio che una figlia, e questa è dell'est, molto dell'est. Parenzo, mi spiace contraddirti, io passo con la macchina per San Fior ogni tanto la sera e vedo il camper di Lucia. Ti assicuro che quasi sempre c'è una macchina in parte ferma e quindi vuol dire che sta scopando. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Naturalmente. Ore 22, finito di lavorare al fuorisalone di Milano, urla gente, robe, casino, sei stressato, prendi la macchina per caricare materiale, casino, robe, traffico, accendi la zanzara e cominci a godere. Allora ragazzi, comunque questo signore qua che ci ha criticato, che si chiama Ziliani, un po' mi sta sui coglioni, devo dire la verità, perché non si può dire merda, imbecillità trionfante, volgarità, cioè chiamatemelo un attimo, così me lo cucino un po', signor Ziliani, signor Franco, tu dici che mi frega? No, ma amico mio, no, che mi frega, no, mi frega perché è uno che fa finta di scrivere queste cose, voglio capire se le pensa veramente. Lei è un insultatore! Buonasera. Ziliani? Buonasera, Truciani, come sta? Eccoci qui. Come andiamo? Molto bene. Ma scusami, ma che cazzo di insulti sono questi qua? A me fanno pure piacere, perché no, perché aspetta, perché la merda d'artista. Aspetti, Cruciani, perché sa, a una certa età sono un po' sordo. Sono all'aperto, lei ha rotto una cena piacevole col mio amore, sa com'è. Vabbè, questo Giuliani. Anche una cosa non simpatica. Allora, tu merda, imbecillità trionfante, volgarità, idiozia, sì. Non so che altro. Ma di che stai parlando? Di cosa stai parlando? Sto parlando della zanzara. Ma sto quale parlando di questo programma radiofonico dove trionfano queste cose che le ho detto. Ma guardi, che lei non, ma lei non sa nemmeno che cos'è. Ma lei non sa nemmeno che cos'è la stupidità e la volgarità. Si informi, ma studi, guardi, studi. Cusani, deve studiare. Io sono il contrario della volgarità. Io sono una persona elegante. Elegante. Raffinata, elegante, di elegante. Ma andate elegante, a leggere quello che scrive. Insulti pure tu come un pazzo. Una persona che ha letto sicuramente 100 libri. 100 volte più libri di quanto abbia letto lei. E che cos'è? Il metro di giudizio è quanti libri uno ha letto? Quanti libri? Ma quello no, è il metro di giudizio? No. No, ma c'è tanta gente che legge libri e poi non li capisce. Io li leggo li capisci. E accresco la mia cultura. Ah, fai, beh, è arrivato. Io ho un'intelligenza naturale che lei non avrà mai. No, certo. A 60 anni io come ho raggiunto io. Io sono una bestia. Io sono una bestia, un animale. Non è una bestia, no, però. Insomma, non sì. È che lei brilli per intelligenza. No, sono totalmente invece. Sono totalmente intelligente. A Parenzo è intelligente, io sarei un cretino allora. Ma un cretino lo dice lei, però Parenzo. Sì. Sì. Sul quale ho detto, mi sono permesso di annotare sì. Che Parenzo. Talvolta sì. Dimostra che non basta essere ebrei per essere intelligenti. Vede, io ho un grande rispetto del popolo ebraico. Ma che ce ne frega adesso degli ebrei? A volte Parenzo mi fa pensare che non basta essere ebrei per essere intelligenti. Sì, ma io non ho capito ancora perché lei. Parenzo, forse stando vicino a lei, capisce? Ma Cruciani, lei lo contagia. Tu ci hai chiamato Fogna! Ci hai chiamato Fogna! Ci hai chiamato Fogna! Ci hai chiamato Fogna, capito? Fogna! Ci hai chiamato Fogna, capito? Fogna. Allora, ma io sono onorato, allora, io sono orgoglioso allora, di guidare questa Fogna, di arrivare in questa Fogna, perché lei non la conosce nemmeno la Fogna. Lei conosce no, solo i vini. Lei conosce i terra, vini, no? Conosce i Cruciani, vini, il mondo dei vini. Non ma si è mai sporcato le mani, allora, si sporchi le mani. Cruciani! Sì, la sento, le dai. Le persone educate non urlano. Le persone educate ascoltano. Ma non è vero, Le persone di cultura non urlano, non dicono parolacce. Lei, per farsi notare in questo programma, deve dire parolacce. Ma non hai capito. Mentecatti che dicono parolacce. Ma chi sei tu? Ma chi sei tu per giudicare? Chi sei per giudicare? Come diceva il Papa, chi siamo noi per giudicare? Guardi, cerchi su chi sono io. Ma non lo so benissimo chi sei. Che scrive sui giornali di allontano 1979. E allora ci sono tanti imbecilli. È pieno di imbecilli che scrivono sui giornali. Del mondo del vino. È pieno di imbecilli che scrivono di giornali, in particolare di vino. Pieno di imbecilli, ne conosco. Pieno. Ma guardi, pieno. L'imbecille sarà lei a darmi l'imbecille. No, io ho detto che è pieno di imbecilli. Ho detto che è pieno di imbecilli. Poi, per carità. Ma il mondo è pieno di imbecilli, punto. Secondo, il mondo, il giornalismo è pieno di imbecilli, punto. Il mondo dei giornalisti che scrivono di vino è pieno di imbecilli. Io sono uno dei pochi che si salva. Ah, tu adesso ti sei autoproclamato. Non sono corrotto. Si è autoproclamato intelligente. Si è autoproclamato guardi, intelligente. Lo dico ai miei lettori, ma Cruciani. Che, ma va, dai, su. Cruciani. Va bene, Giuliani, ti lascio. Ti lascio. Ti lascio perché non si sente, tra l'altro. Ti lascio la tua cena con la tua dolce ma metà. Ma chiedo, lei ci è o ci fa? Io sono mi così, chiedo, sono così. Fa? Se ti piaccio bene, altrimenti se ti piaccio bene e siccome tu sei un perverso che continui ad ascoltare questa trasmissione no, nonostante la volgarità, quella che tu chiami volgarità. Ciao, ciao Giuliani, basta, ciao, ciao, ciao. Ah, Parenzo, non ce la facevo più. Beh. Mi volevo sfogare un po' sì, con Giuliani. Ti capisco anche, certo. No, perché poi le parole che ha usato putrida, urlata, cialtrona, caciarona sono bellissime, tra l'altro, capito? Per cui mi sono incazzato anche un po' fuori cioè, fuori non misura, volevo... dice. No, ma perché in realtà sono cose che mi fanno piacere quando mi dicono questo, sì, no, capito? So che tu a te piace essere scoraggiato, ti piace. Ma no, non esagerare. Vabbè, adesso. Che facciamo? È venerdì, chiudiamo anzitempo, diamo la linea al giornale. No, che? Okay. Ma quale giornale? No, magari Antonio un approfondimento sulla questione che stanno poi avvenendo. No, voglio chiamare altra gente, Antonio sulla da Milano. Guerra, facciamo fare un eccomi qua, mi sentite? Sì, vai. Allora, beh, prima cosa non te la prendere, dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori. Prima cosa. De André. Ma esatto, grandissimo. Cioè, hai citato De André alle 20:28? Ah, no, va bene, perché non nasce niente. Vai, vai. Considerazione di fondo, sì. Solita masseria, ma domanda, ma come fa uno Stato a dire venite da me, vi risolvo i problemi, venite da me, non andate dal mafioso di turno, soprattutto al sud? Siccome io di mestiere faccio l'analista, analizzo e dico, ma quale potrebbe essere il futuro? Il futuro è che la prossima volta io e te, Parenzo, non sappiamo nulla, andranno dal mafioso di turno, risolverà il problema. No, ma speriamo di no, sarebbe una follia ulteriore, sarebbe una cazzata, una cazzata ulteriore rispetto a quello che già è stato fatto, sarebbe un'ulteriore minchiata. Sono d'accordissimo con te, ma purtroppo il problema è che quel signore lì, probabilmente, che abbiamo sentito prima, con cui abbiamo fatto una grande discussione, una grande trattativa purtroppo naufragata per risolvere questa questione della masseria occupata dai Rom, quel signore lì evidentemente non è un mafioso, non ha contatti con la mafia, altrimenti probabilmente avrebbe già chiamato 3-4 persone. È una persona per bene che infatti è esasperata. Bene, ti rendi conto della tristezza della cosa? Fermo lì. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao. Giuseppe, ma tu lo sai che è tornato di moda il pelo? Il metodo definitivo. Riempite la vasca da bagno di acqua, ci mettete dentro tantissimo bagnoschiuma, poi vi immergete e sganciate una scoreggia di quelle proprio belle, quelle piene. Vedrete che si formerà sul pelo dell'acqua delle bolle. Ecco, raccoglietele con molta gentilezza, avvicinatele al naso, aspettate un po', poi la esplodete. Siamo al top. I will be the greatest president that God ever created. L'hai mai utilizzato il metodo bolla, Parenzo, dentro la vasca? Beh, bellissimo. Dottore, alle 20:36 fa sauna calda, no, palla polchelia, sauna calda, l'ivo fa massaggio con clema su colpo, non palla queste polchelie, dottore, a quest'ora. Ok, ragazzi, guardate che il metodo bolla dentro la vasca è eccezionale, eh? Eccezionale. Anche facendole scoppiare, poi si sente questo odore pazzesco. Il solo pensiero del culo di Crociani afflitto da Tarzanelli. Mamma mia, che schifo con quel culo ossuto. Mamma mia, Crociani, che schifo. Look, I'm really rich. Cazzo, Crociani, ho appena lasciato giù la mia ragazza a scuola di ballo. E quando è uscita la macchina, appena aperto la porta, ho sparato la zanzara al massimo mentre tu stavi scandendo chiaramente la parola squirting, che ha rimbombato in tutta la corte di sto palazzo di merda. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Cos'è lo squirt? Comunque, ragazzi, ieri la cosa che mi ha sorpreso di più è che la mitica Lori del Santo non sapesse cos'era lo squirting. Cioè, incredibile, una così navigata, 60 anni quasi, è stata con chi è che è stata? Con, come si chiama, Eric Clapton, tra gli altri. Mi pare, sì. Grandi protagonisti nel mondo dello spettacolo. Cassoggi, ti ricordi? Pure Cassoggi. Sì. E Cassoggi! Vabbè, per dire, no? Tanto per utilizzare una cosa sgarbiana. Cioè, non sapeva cos'era lo squirting. Ma persino mio nipote sa cos'è lo squirting. Tuo nipote? Ma lo sa perfettamente cos'è lo squirting. Ha 18 anni, sa cos'è lo squirting. Lo sa, di avere uno zio, diciamolo, che è un maiale. Ma lo sa, ma è normale, l'ABC. Se non sai... Bisogna dirla a tutti, sono tre Cruciani. Una ragazza, una Cruciani, la sorella di Giuseppe, una persona per bene, con una bella famiglia, rispettabile. Ma cosa c'entra questo? Poi c'è l'altro, il creativo, che fa il regista, che è una bravissima persona, un bravissimo ragazzo. Cosa c'entra? E poi c'è il terzo, il teppista radiofonico. Ma non c'entra niente. Quello che invita a fare la pipì nei lavandini. Ma io quello non invito che nessuno. Anela che di trovare la, di trovare i propri, vabbè, insomma, tornare dai, a dillo, casa dillo. E fare una gang bang. Sì, quello l'hai detto che sempre adesso perché anela, oggi non lo puoi dire. Anela, quello, insomma, che va bene, dai. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Sgarbi contro le Iene, non è la prima volta. Villanzone arriva in automobile, ma con piedi scalzi, senza salutare nessuno, si ricompone beatamente. Poi si accorge dei nostri eroi. Cortesemente ci puoi dedicare un pensierino? Sei una testa di cazzo. Lo sgarbato finalmente scende dall'autovettura per esprimere un concetto. Mi avete rotto il cazzo! A di voi non mi siete simpatici, quello che è carini, non me ne frega niente, devo fare altro. Ma dice solo parolacce. Ma i nostri eroi non si danno per vinti e tornano dal cattivone. Si sarà calmato nel frattempo? Andate a fare il culo! Perché ti arrabbi? Perché non ho tempo da perdere! Dedica un po' di tempo alle buone maniere! Toglimi dai coglioni, imbecille! Ma signor Villanzone, con le buone maniere è tutto più bello! Fate ridere, fate cagare, voi la vostra televisione di me! Ma i nostri eroi non cedono e vogliono redimerlo. Ci riusciranno? Andate a fare il culo voi ma due! No! In più, teste di cazzo! No! Rotti in culo, pezzi di merda! Teste di cazzo! Ma no! La missione sembra a buon punto. Imbecille! Mi avete rotto il cazzo! No! Fuori, coglione! Dobbiamo chiedere scusa a tutti quelli che ci hanno chiesto. Andate a cagare voi, chiedete scusa di esistere. Nullità, zero mentale, capre. Lavatevi le ascelle, poi ma da stamattina. Ma fate cagare, vi puzza anche l'ali. Chiedete scusa di esistere, è meraviglioso. L'avevo ancora detto. Chiedete scusa di esistere, è bellissimo. Chiedete scusa di esistere. Vittorio, una cosa carina, una. Culattoni! No! Culattoni! No! Vittorio, una. Puzzoni! No! Chiattoni! No! Capre! Ma no, Vittorio, una. Una cosa carina. Come siete bellissimi. Oh! Ce l'hanno fatta. Alla fine il bene e la cortesia trionfano sempre. Io non voglio abbracciare due finocchi come voi. Ma non so. Okay. Questi erano i moralizzatori, no, i famosi moralizzatori delle Iene. Però sì, no, due cazzoni che vengono mandati in giro naturalmente a fare una parte. E solo che lui all'inizio si imbufalisce, poi scopre che in realtà sono due. Sì. Che non lo vogliono fregare, lo vogliono solo far incazzare, sta al loro gioco. È sempre un genio, Vittorio, Certo. Allora, ragazzi, la cosa incredibile è quello che succede. Parliamo di una cosa seria per una volta. È quello che succede durante un programma, credo mi manda Rai 3, condotto dall'ottimo sì. Sottile. Sì, allora, sì. Cosa succede? Ad un certo punto interviene. Ti giuro, una volta Berlusconi, quando interveniva nelle trasmissioni, chiamava Santoro, ha chiamato una volta Lerner, era per cose serie, chiamava perché comunque c'era il conflitto di interessi, perché pensava che i giornalisti andassero contro di lui, chiamava per cose serie, non come questo tizio Ciampolillo, uno che si chiama poi Ciampolillo, uno come fa a chiamarsi Ciampolillo? Vabbè, ma è un cognome assurdo, Ciampolillo, cambia cognome, mi pare un Ciampolillo. Problema minore rispetto ma come a tutto cazzo il resto? Fai a chiamarti Ciampolillo? Ma non mi pare il fulcro del problema. Lillo, o sei Ciampolillo, deciditi, no? Ciampolillo, già non sei credibile, ti chiami Ciampolillo. Comunque va bene. Questo pare che sia vegano, è giusto? È vegano, mi dicono, è vegano. Bene, e dunque, vabbè, ognuno fa quello che vuole. In questa trasmissione si parlava della solita cosa, vegani, carnivori, dove c'era, siamo alla Rai, c'era una contrapposizione tra quelli che mangiano la carne, quelli benissimo. Che dicono che fa male, quelli che dicono giusto, che fa bene. Giusto, chiama giusto. Il signor Ciampolillo, che fa parte della commissione di vigilanza Rai, peraltro, dei 5 Stelle, no, vigilanza Rai, giusto, vigilanza, no, mi stanno correggendo. Sì, sì. Perché siccome ci sono 100 cose qui da pensare, io ho un foglio in mano dove ci sono 150 cose. Io vorrei tutto, vederti, no, vorrei tutto. Vederti tu alle prese con queste cose. Ma ci no, sono 200 ma devi cose. Andare a braccio, porca segui puttana. Il flusso del pensiero, dai, ma che ti frega? Allora, Ciampoli, no, flusso del pensiero puoi farlo tu che non c'hai, che stai lì ma con no, le gambe così, con le gambe così. Cose da fare, tu stai con le gambe stimoli, sulla scrivania. Gente che mi chiama, gente che mi vabbè, chiede comunque, spiegazioni. Comunque, ragazzi, stavo di Ciampoli, non mi fare perdere nelle cose. Ciampolillo, c'è un Ciampolillo. Lello Ciampolillo. No, il quale interviene. Ti giuro, la cosa incredibile, lo sai per dire cosa? Sentiamo Ciampolillo, ti prego, sentiamo Ciampolillo, ragazzi. Sì, io chiamavo perché ho visto l'intervento precedente, quello che riguardava carnivori contro vegani, sì. E mi è sembrato molto strano che in trasmissione non ci fosse il medico vegano, cioè c'erano a confronto due medici, ma non c'era quello vegano, anche perché noi sappiamo che invece il professor Berino è un medico vegano, quindi proprio certificato. A me non risulta, per un semplice motivo. Però a noi sì. Questo voleva la par condicio vegana. Sì, no, ma cioè, a parte troppo, che c'era un medico. Sì, troppo buono è stato l'ottimo sottile che lo ha giustamente. Doveva dire, scusi, ma lei che sì, cazzo però è vuole? Bravo, è no, stato io avrei risposto, perché... scusi, ma lei no, si faccia stato, i cazzi suoi. È stato quelli... educato no, è stato e col educato. Suo stile sì. Lo ha messo un io po' avrei all'angolo. Detto, bravo, è, per questo che, è per questo che per fortuna non conduco quella trasmissione, ma non bravo. Dico per sottile. Dico, io avrei detto, scusi, signor Ciampolino, lei da dove chiama? Dalla commissione di vigilanza RAI. La trasmissione la decido io. Però è stato molto bravo. Chiamo io quelli che vogliono. Lei non mi rompa i coglioni, soprattutto non ci faccia perdere tempo. Ma con ironia, ma che ha detto uno guardia, deve a noi risulta tempo. Diversamente con grande pazzesca. Ironia. Bravo, dai, bravissimo. Su. La par condicio vegana voleva questo? Voleva il medico vegano perché parlavano. Voleva uno che parlava male del latte? Che non si può dare il latte, Ciampolillo? A Ciampoli. Dai, chiamiamo Lutwak. Mi sono rotto i coglioni. Facciamo cose serie, chiamiamo Lutwak. Vai. Professor Lutwak sulla situazione in Siria, chiamiamo, vai. Professor Lutwak? Sì, chi parla? La Zanzara, Cruciani, come sta? E Parenzo? Un momento bene. Radio 24, Shabbat Shalom, professore. Shabbat Shalom. Grazie. Eccoci qui, finalmente sono arrivate bombs, professore, bombs sulla Siria. Sì, ma ieri sera. Sì? Nel Consiglio di Sicurezza i russi hanno detto. Sì? Che loro bloccano qualsiasi risoluzione. Siccome gli americani volevano che i russi. Sì. Prendono responsabilità sì. Per l'accordo di rimuovere il chimico e loro hanno rifiutato di prendere responsabilità e invece hanno circolato la storia che in realtà erano gas di proprietà dei ribelli. Certo, fake news. Ma di chi sono? Di chi sono questi gas? Professore, prima, professore, scusami un attimo. L'attacco al gas, diciamo, l'esplosione dei gas è di Assad la colpa? Il ministro di difesa israeliano, Lieberman. Ho ha detto grande, due giorni fa pubblicamente che il governo israeliano sa esattamente chi ha ordinato l'attacco ed era Assad in persona. Perché lei ci crede, professore? Non qualche Giulietto funzionario, non qualche generale, ma esatto. Assad in persona. Ma lei ci crede? Lei ci crede a questa storia? Sì, perché la storia è uscita in termini è uscita senza nessun collegamento, nessun piano di far niente. Era una semplice dichiarazione. Del ministero della Ho capito, però, professore. Perché ieri Giulietto Chiesa ha detto delle cose terribili quando noi Giulietto Chiesa ha detto che è un complotto degli americani. Giulietto sì, Chiesa. Ecco, allora, ecco. Guarda, l'altro giorno mi si è sciolto il gelato ed era un complotto di Giulietto Chiesa, il quale usa radiazioni. Ogni volta che voglio mangiare un gelato, Giulietto Chiesa mi fa le radiazioni e. Mi scioglie il gelato, non riesco a mangiare. Giulietto Chiesa non fa parte del discorso sui rapporti internazionali di oggi. Perché? Non sa niente, non sa un cazzo. Dai, no, un cazzo. Era un bravissimo corrispondente a Mosca dell'Unità. Sì. Ecco, sì. Sicuramente molto bravo. Adesso purtroppo non conta più. Ha fatto bene il signor Trump a fare questo attacco? 50... Ma a questo punto, guarda, dopo 8 anni di Obama... E la decisione era di recuperare per il dizionario la parola inaccettabile perché nei grandi anni di Obama lui tirava fuori questa parola inaccettabile e non faceva niente, poi si girava e faceva altro e non faceva niente. Certo. Allora il Papa dice inaccettabile. Quando il Papa dice inaccettabile si sa benissimo che lui accetta tranquillamente e non fa niente, né chiede a nessuno di fa niente, ma il presidente americano Trump voleva recuperare questa parola per il dizionario. Inaccettabile vuol dire inaccettabile. Bello, bombs, 59 bombs. No, qualcuno... no, sono 59 missili che hanno solamente mirati, qualcosa dice. Come 490 kg di esplosivo. Beh, insomma, è, no, per un attacco contro una base aerea è una cosa è una cosa limitata e specifica. Lui c'ha ancora quattro basi aeree. Ma sono che tipo di bombe? Sono intelligenti? Bombs intelligenti? No, sono missili di crociera di precisione. Di precisione, entrano nel raggio di 3 o 4 metri. Vabbè, ammazzeranno qualcuno questi? Sì, anni. Hanno ammazzato, sicuramente c'erano gente su questa base. Beh, cioè, sicuramente. Ma apparentemente pochi morti per il semplice fatto che questo tipo di... questi missili vanno piano. Vanno molto piano, si vedono e si sentono, e quindi la gente può nascondersi. Questo comunque è molto buono. Sono i missili preferiti da lei, questi qua, no? Non sono i missili preferiti, ma sono i missili che si lanciano dalle navi, certo. Che comportano meno rischi. Lei gode un po'. Se no, Trump poteva unirsi al Papa, a Obama, a Mogherini e rispondere dicendo inaccettabile, e poi girarsi e mangiare un gelato. Poi c'è anche il Papa che è sempre a favore dell'immigrazione. Vabbè, Papa, però... sempre, no, sempre il molto. Papa fa il suo, parla fa molto il Papa. Questo Papa Bergoglio. No, lui è un uomo di spettacolo. Un intellettuale formato dall'Università di Buenos Aires, quel tipo di mentalità che non capisce la libera impresa e il capitalismo, perché in Argentina sicuramente hanno ragione, chi fa capitalismo è un ladro. L'idea di costruire aziende, fare aziende, impiegare la gente, questo non è la loro... Vabbè, il Papa, è contro la libera impresa, è contro l'imprenditore, il Papa... Papa contro l'imprenditore. Chiunque, un imprenditore è un qualche tipo di criminale. È un criminale, è un giudizio abbastanza... Forse questo è un po' Papa duro, sempre no? A favore di poveri. È una classica posizione cattolica. Ma può finire, scusi, ultima cosa, Lutto, può finire con l'assassinio di Assad? Lei Assad viene assassinato, questo sicuramente non sarà mica un'azione americana. Va bene, grazie professore, grazie. Salute, grazie. Caro, bombs. O tu, testa di cazzo, sai di Assassinione ti ha dato le armi ai Assad. Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una cazzo internazionale. Stiamo parlando, stronzo che non sei altro. Ma che dici? Cosa stai parlando? Una volta facevi il giornalista, che insultare. Pagato da Assad. Allora io ti denuncio. Caro David, ecco. Ci sentiamo lunedì. Sì, forse. Mamma mia, come sono carico. Farei altre due ore. Forse. Come forse? No, forse ci vediamo. Che t'ammazza qualcuno. T'ammazza qualcuno dai servizi segreti siriani. Mi viene la depressione. Non posso più lavorare. Sono tu. Sei felice come una Pasqua. Vediamo. Tu. A lunedì, ciao ragazzi. Vaffanculo. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, con l'uniforme a casa. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Bonnez, parlate di Pucciac. Radio 24, libera la voglia di fare. Vai, vai.